E per me musa e natura non sono disgiunte, capito? Perché mi piaceva molto avere questi contatti. Sentivo per esempio il canto degli uccelli, mi riportava a delle opere tipo Beethoven, Mozart, e mi davano quel senso di pace. Ecco perché cerco sempre la musica io, perché mi danno un senso di pace. Ricordare qualcosa di bello, sì. Ecco, io per esempio ricordo tanto di bello il disco di Frank Sinatra. Ecco, è una cosa, ti commuove il disco perché ti commuove quelle parole di quel disco, che sono, ora io non me le ricordo tutte, ma sono bellissime. My friend, I'll say it clear, I'll state my... C'avevo il giradischi regalato dal mio fidanzato e mi portava dischi anche. Ne avevo tanti a 45 giri e 3 o 4 a 33. Celentano, Mina, e Claudio Villa, Campagnola Bella. Oh Campagnola Bella, tu sei la reginella. Negli occhi suoi c'è il sole, il color delle viole e delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce è un'armonia di pace che mi sussurra e dice: se vuoi vivere felice devi vivere con me. La la la la la la la. Chi prete mi voleva portare dal dottore perché la voce mia non gli piaceva. E mi disse un giorno: t'hanno mai portato da un dottore, Mara? No, gli ho detto. Allora ti ci porto io, ma io non voglio cambiare la mia voce, me l'ha data il Dio, la voglio tenere così. E allora dice, va bene, tenna così. Anche a me mi ricorda i vecchi tempi, quando c'avevo tutte le musiche di vari autori, musicisti, e che ascoltavo molto volentieri dopo una giornata di lavoro in negozio. Invece di vedere la televisione mi mettevo a sentire la musica. Oltre a questo c'aveva anche la musica, lo sai, la lirica e la classica. E quando i miei genitori erano alla televisione io mi chiudevo nella stanza con i miei giradischi e ascoltavo. Giusto che mi piaceva ascoltare, perché c'aveva una bella collezione che ora non sanno per se è andata a finire. Davvero? Anche se io sono di molto legato, lo sai, il tempo che ho detto da Schubert, Mozart, Beethoven, sono quelle che mi hanno dato via. E mi ci avvicinai fin da ragazzo, mi ci avvicinai. Ma mi mise a ascoltare un concerto e poi da allora non sapevo più. Mi sono sempre di più legato a questo mondo. E poi da me andavo a Teatro Comunale a Firenze quando c'erano le opere. L'ho ascoltato anche parecchio, facevo l'abbonamento. E tutti gli anni facevo l'abbonamento. E poi avevo fatto amicizia anche con una ragazza che suonava il violino. Era un'americana. Si chiamava Casey, che è il nome, e mi regalò una volta un librettino con tutte le muse e cose. E io suonavo il violino proprio. Sarebbe piaciuto sapere che fine ha fatto. E poi mi ricordo che sono andato a mio babbo a Torre del Lago, e proprio sul lago di Massaciuccoli, a ascoltare l'orchestra e si vide la Boheme e il Turandot. Oh, che bellezza era! Poi ci vedeva tutti i germani andati le sponde. E se non credere, fu un bel periodo, sì. Quello fu proprio un bel periodo. Quella del Gelli da Manina, e la lasci riscaldare, cercare che giova, al buio non si trova, ma per fortuna la notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. E che poi c'è questo aspetto della conoscenza della signorina arrivare incontro lì nella mansarda, perché tutto si svolge a Parigi, è una storia d'amore, sì. Che comincia allegramente con questi che sono tutti degli studenti e che poi però va a finire in tragedia. E quello è l'aspetto che... E da ultimo è ancora più sentito. Come dice a Rodolfo, hai sbagliato il raffronto. Volevi dire bella come un tramonto, che lui dice fosse bella come l'alba, no? E invece lei fa, hai sbagliato il raffronto, volevi dire bella come un tramonto. Senti Puccini proprio. E l'unica che arriva veramente al cuore è Puccini. Mm-hmm.